voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. L'automotive digitale che farete sul territorio, di Anna Marino. Nuova puntata della serie speciale di Voci di Impresa in collaborazione con Sharing Italy, l'iniziativa di Intesa San Paolo che ha riunito a Torino 150 imprese sui temi dello sviluppo economico e imprenditoriale. Le prime due storie d'impresa arrivano da due distretti dell'automotive, in Piemonte e in Lombardia, e hanno in comune anche la forte digitalizzazione della produzione di alta gamma. La terza storia punta su tecnologie e servizi di ingegneria all'avanguardia in una regione, la Campania, che sta cambiando il suo tessuto industriale. La prima case history è quella di Osai Automation System S.p.A. ed è una PMI torinese fondata nel 1991 che opera nel settore dell'automazione dei processi industriali per fornire soluzioni in grado di ammodernare i mezzi di produzione nel mondo dei semiconduttori, dell'automotive e dell'elettronica in genere. Un'azienda che appartiene da sempre alla stessa famiglia, come racconta Mirella Ferrero, presidente Osai Automation System. La nostra azienda nasce 25 anni fa, infatti quest'anno festeggeremo un quarto di secolo di azienda. L'azienda è stata creata da mio fratello Carlo, che purtroppo è mancato un anno e mezzo fa. Noi siamo nati come tante famiglie italiane nel garage di casa della mamma e poi ci siamo trasferiti a Parella, che è il cuore del Canavese, proprio il cuore che ha fatto crescere l'Olivetti. Quindi noi siamo in un territorio assolutamente già tecnologico da tantissimi anni. La nostra azienda è un'azienda puramente familiare, siamo ancora oggi il 100% la famiglia Ferrero e stiamo cercando di esplorare il mondo. Abbiamo tre filiali, una in America, una in Germania, una in Cina. Esportiamo ormai il 90% e siamo in un settore super tecnologico, siamo una PMI innovativa iscritta al registro delle PMI innovative e abbiamo avuto la grandissima fortuna nel nostro percorso di trovare delle aziende di altissimo profilo che ci hanno da sempre affiancato e ci hanno dato comunque tanta fiducia. Nonostante la crisi che ha colpito il distretto piemontese dell'automotive, Osai non ha subito l'impatto delle difficoltà economiche di settore perché, secondo Mirella Ferrero, si è scelto di puntare sull'innovazione e sulla tecnologia, soprattutto nel settore dei semiconduttori. Per fortuna noi non siamo stati colpiti dalla crisi, perché una grandissima scelta difficilissima aziendale fatta negli anni addietro, quando abbiamo deciso di non distribuire mai utili ma di reinvestirli, e con il supporto di territorio delle banche abbiamo potuto superare la crisi facendo degli investimenti veramente importanti che oggi iniziano veramente a dare un ritorno sostanzioso. Noi ci siamo sempre occupati di automazione, in particolare verso l'automotive, però che riguardano i settori di novità assoluta. Quindi noi facciamo tutti i prototipi tailor made, noi siamo veramente dei sarti che costruiscono su misura un macchinario che deve assolutamente sviluppare un prodotto nuovo. Oggi siamo molto presenti sul mercato dei semiconduttori, che è praticamente il futuro. Questo però, ripeto, grazie a una politica, se a volte appariva veramente folle, oggi è stato il grandissimo successo dell'azienda. Importante, secondo la presidente di Osai Automotive, è stato attingere ai fondi europei. L'azienda ha chiuso il 2016 con un fatturato di 22 milioni, siamo proiettati in 2017 intorno ai 28 milioni, il capitale è sempre della famiglia. Abbiamo la fortuna di accedere a molte fonti di finanziamento, in particolare alcune a tassi super agevolati, perché noi rientriamo nell'innovazione tecnologica sempre, quindi facciamo parte di progetti internazionali importanti tipo il progetto ADIR, che è un progetto con la Fraunhofer tedesca, e quindi abbiamo accesso a fondi BEI, abbiamo diversi accessi veramente importanti che noi sfruttiamo regolarmente sempre. Nel 2015 Osai ha registrato un organico superiore alle 100 unità, con una quota di esportazione del fatturato superiore al 70%. Conta oggi tre filiali estere in Germania, Cina e Stati Uniti, oltre a 40 distributori nel mondo. Mirella Ferrero spiega su quali leve ha puntato la sua azienda. La nostra leva fondamentale è la qualità di prodotto, quindi questa è la leva che Noi siamo posizionati su tantissimi mercati, in particolare oggi lavoriamo moltissimo per l'America, per la Cina e anche per la Malesia. Lavorando nel settore dei semiconduttori, ovviamente siamo molto rivolti verso l'Asia, mentre tutta la parte automotive riguarda sia l'Europa, l'America, il Messico e anche la Cina. Ormai il 360 gradi ovunque, ma è proprio la caratteristica della nostra attività che ci porta a non selezionare dei paesi, ma vengono selezionate le tipologie poi di clientela che può utilizzare i nostri prodotti. Con la seconda storia rimaniamo sempre nel settore automotive, ma ci spostiamo in un altro territorio, quello lombardo. IMR Automotive SPA opera a Carate Brianza da oltre 60 anni nello stampaggio e assemblaggio di prodotti plastici e nella costruzione di stampi e attrezzature per le principali case automobilistiche. Impiega circa 800 dipendenti e ha 4 stabilimenti dislocati nel nord Italia e in Spagna. Ci racconta le origini dell'azienda e il suo sviluppo attuale il fondatore e presidente Silvano Galmarini. L'azienda nasce nel 1947, dopo la guerra, è nata nel territorio della Brianza milanese, poi si è trasferita nella Brianza più classica, nel caso nostro a Carate Brianza. Il nome è Industrie Metal Vacuum, che è la prima azienda che è nata nel 1947. Ranger è l'acquisizione che è stata fatta nel 2009, che era già in Brianza, a Carate Brianza. Conta 2 stabilimenti in Brianza, 2 stabilimenti a Torino e 1 a Mondovì, quindi 3 stabilimenti in Piemonte, 2 stabilimenti in Spagna, Barcellona e Madrid, 5 stabilimenti in Germania, ma i nomi sono impronunciabili e io non li dico, ma sono 5, e 1 in Polonia e 1 a Göteborg. Le difficoltà economiche globali del settore automotive hanno avuto un impatto diverso per IMR nei 2 suoi principali comparti, automotive e truck, che producono componenti esterne per auto e per cabine di camion. E nel 2009 la società della famiglia Galmarini ha sfidato la crisi iniziando una serie di acquisizioni e investimenti. Noi abbiamo 2 aree di business, che uno è l'automotive in senso classico e l'altro è il truck, che è il camion. Per quanto riguarda l'automotive, nel 2009 la società fatturava circa 70 milioni. Oggi nell'automotive la società fattura circa 320 milioni. Mentre nel truck abbiamo avuto un paio d'anni, 2009, 10, 11, 2-3 anni di crisi, oggi è ampiamente superato e anche quello è un business da 70-80 milioni. La nostra è un'azienda ad alta tecnologia, quindi come tale dobbiamo fare investimenti che sono programmati all'incirca in 8-10 milioni all'anno. Abbiamo investito prevalentemente nella tecnologia e abbiamo fatto assunzioni per circa 800 persone. E poi tutto il resto degli investimenti sono nella parte tecnologia, degli impianti macchinari, impianti di verniciatura. Il business vero e proprio è la tecnologia della plastica, dei vari componenti di plastica. Nel modello di business, secondo il presidente Silvano Galmarini, sono strategici internazionalizzazione ed export con prodotti su misura. Il nostro modello di business è fatto su misura, un vestito fatto su misura sul cliente, evidentemente. Avendo noi come clienti Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Rolls Royce, Bentley, chi più ne ha più ne metta, evidentemente assorbiamo molto anche dal cliente. Su 400 circa milioni di fatturato, sono 400 milioni di estero. La terza storia punta su soluzioni tecnologiche Tailor Made, una impresa innovativa modello Silicon Valley ai piedi del Vesuvio. Protom opera nei settori della consulenza, formazione, servizi di ingegneria avanzata per i trasporti ed ICT. È una realtà nata 21 anni fa che ha chiuso il bilancio 2015 con un fatturato in crescita del 20% partendo da un'idea del fondatore Fabio De Felice. L'azienda nasce nel 93 da una idea mia di cercare di portare la mia esperienza universitaria, sono ingegnere, all'interno del mondo della produzione e dei servizi. Da lì è maturato un insieme di idee e di azioni che poi in qualche modo hanno realizzato quello, l'attuale scenario in cui Protom esiste e insiste, quindi innovazione tecnologica riferita a mercati diversi, quelli che vanno dall'industry fino all'advertising piuttosto che al cultural heritage, quindi tutte le applicazioni dei modelli IT e ingegneristici applicati all'innovazione tecnologica del mercato in senso molto più allargato possibile. E l'internazionalizzazione è stata un fattore chiave per questa azienda, per cui la crisi è diventata una nuova normalità, come spiega il fondatore di Protom. Il modello di business è improntato quindi sull'export. Noi siamo un gruppo di aziende che cuba in termini di fatturato 15 milioni di euro e insistiamo su più mercati esteri. È vitale, è essenziale non farlo, quindi è fondamentale promuovere le proprie competenze in più mercati. Noi siamo certamente su tre mercati obiettivo: la Francia, dove c'è il maggior, Toulouse in particolare, dove c'è il maggiore sito di assemblaggio aerospaziale, quindi non potevamo non stare lì. Siamo in Brasile perché l'altro player importante del mercato aerospaziale è Embraer e Fiat ha investito moltissimo in quel territorio e la nostra tecnologia, le nostre competenze dovevano necessariamente seguire grandi player. Ma ci aggiungo che in questo momento ci vede un pochino in attesa il mercato del UK, dove abbiamo una sede commerciale sulla quale stiamo decidendo in questo momento cosa fare, perché non abbiamo ben capito quali saranno i risvolti di questa Brexit in questa fase della nostra vita aziendale. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.